البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Dedichiamo la trasmissione di oggi ad un importante incontro svoltosi mercoledì 23 presso il CPA, Centro Popolare Autogestito di Firenze Sud, con l'intento di dare corpo al termine Firenze per la Palestina, termine che è stato adottato nel passato in più di un'occasione. All'incontro hanno partecipato Assopace Palestina Firenze, Associazione di Amicizia Italo-Palestinese Onlus, CPA Firenze Sud, Cantiere Camillo Cienfuegos di Campi Bisenzio, Comunità Palestinese di Firenze. Si tratta di forme associative ed organizzative diverse, ciascuna con una propria storia, una propria origine, una propria identità, una propria base sociale. Le ragioni che hanno spinto queste diverse realtà ad incontrarsi ce la diranno tra poco gli esponenti stessi di queste realtà. Questo subito dopo la selezione stampa. Le notizie dalla Palestina di questa settimana selezionate sul sito amicizia-italo-palestinese.org. Io sono Giacomo. Iniziamo con una notizia che riguarda la politica palestinese. Negli ultimi giorni c'è stato un incontro tra delegazioni di Fatah e di Hamas ai massimi livelli. Erano presenti sia il presidente Mahmoud Abbas per Fatah e Ismail Haniyeh per Hamas. E l'incontro si è svolto sotto il patrocinio della Turchia, paese a cui evidentemente i palestinesi stanno rivolgendo maggiormente dopo il tradimento da parte dei paesi del Golfo e della Lega Araba. E la notizia è che le due delegazioni avrebbero raggiunto un importante accordo che prevede lo svolgimento di elezioni entro 6 mesi su tutto il territorio palestinese, che quindi metterebbero fine alla divisione fra la West Bank e Gaza, quindi i due governi di Fatah e Hamas. Vedremo se sarà veramente possibile lo svolgimento di queste elezioni. Nel frattempo Israele invece continua a godere del pieno sostegno dell'Occidente, compreso il nostro paese. Un articolo sul Jerusalem Post, tradotto nel sito di Assopace, ci informa che c'è stato un accordo fra Italia e Israele per lo scambio di commesse di materiale militare, un accordo siglato con due pompose cerimonie fatte simultaneamente in Italia e in Israele. E l'accordo prevede che Israele acquisti elicotteri di addestramento prodotti in Italia e l'Italia in cambio acquisti dei missili e dei simulatori di tiro sviluppati da aziende israeliane. Passando ora all'analisi politica, pubblichiamo due analisi di due studiosi occidentali che riguardano il razzismo e quanto il razzismo sia radicato nella società israeliana. Nel primo intervento, che viene dal sito Palestine Chronicle, viene fatto un parallelo tra gli Stati Uniti e Israele riguardante le paure che ci sono nei due sistemi riguardo alla purezza razziale del paese, quindi la paura della, diciamo, contaminazione da parte di minoranze culturalmente o etnicamente diverse. Paure che si traducono in pratiche di vera e propria eugenetica e di pulizia etnica, pratiche come ad esempio le sterilizzazioni forzate. E in effetti la notizia da cui trae spunto l'articolo è un recente caso in cui un medico statunitense è stato accusato di aver sottoposto in massa donne a isterectomia donne che erano detenute in un centro di gestione dell'immigrazione. Nell'articolo si fa notare come le teorie di eugenetica e questo tipo di pratiche sono in realtà una costante nella storia degli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni native e poi delle minoranze afroamericane e ispaniche. Il parallelo con Israele è naturale, visto che Israele si fonda sulla pulizia etnica e sull'istituzione con la forza di una maggioranza ebraica, e si racconta che pratiche di controllo delle nascite sono state fatte in Israele anche nei confronti delle minoranze di immigrati ebrei dai paesi più poveri. In particolare si parla della somministrazione in massa di farmaci anticoncezionali alle donne immigrate dall'Etiopia, che sono un po' l'ultimo gradino della scala sociale fra gli ebrei israeliani. Nel secondo articolo, che viene dal sito di Middle East Monitor, si parla invece del caso di Ben Uliel, il terrorista colono israeliano, che è stato recentemente condannato a 3 ergastoli per avere sterminato una famiglia palestinese appiccando il fuoco alla loro casa, uccidendo i genitori, un bambino di 18 mesi, e ferendo gravemente il secondo bambino di 5 anni. La notizia è che questa condanna ha provocato un grande movimento di sostegno nei confronti di questo signore, che si è concretizzata in una raccolta fondi che ha raccolto oltre 300.000 euro in soli 5 giorni per finanziare le spese legali dell'appello, del processo di appello. Ci sono stati quasi 5.000 sottoscrittori, fra cui personalità di spicco, evidentemente politici d'estrema destra, fra cui anche il figlio maggiore di Netanyahu, che è noto per le sue posizioni estremiste. Quindi è un caso che testimonia come il sostegno ai movimenti di estrema destra, ferocemente antipalestinesi, sia ampio in Israele, e si ricorda anche il caso precedente del soldato Elor Azaria, che era stato condannato per aver ucciso a sangue freddo un palestinese ferito a terra e disarmato, e che alla fine ha avuto una condanna anche estremamente mite: è stato condannato per omicidio colposo ed ha passato solo 9 mesi in carcere, dopodiché è diventato una celebrità in Israele, addirittura è stato usato come testimonial durante le ultime campagne elettorali per il Likud. Chiudiamo infine segnalando un bell'omaggio alla figura di Edward Said, pubblicato sul sito di Infopal, un articolo che ripercorre la storia del grande intellettuale palestinese. È la traduzione di un articolo che per la verità è apparso diversi anni fa, un articolo a firma di Amelia Smith, sempre sul sito di Middle East Monitor, ma il pensiero di Said rimane quanto mai attuale, come recita il titolo dell'articolo. Si tratta di un grande intellettuale senza tempo, e in effetti più passa il tempo e più ci si rende conto di quanto il suo pensiero fosse profondo e profetico. E con questo è tutto per questa settimana. Buongiorno Palestina, questa sera si trova presso il Centro Popolare Autogestito Firenze Sud, il CPA. Perché al CPA questa sera, che è il 23 settembre, sta per iniziare una riunione di Firenze per la Palestina. Ma che cos'è questa Firenze per la Palestina? Lo chiediamo a Guido, che ci ospita stasera perché è del CPA, e allora gli chiediamo, questa Firenze per la Palestina che cos'è? È un'associazione? Allora, diciamo che Firenze per la Palestina è un'esperienza di coordinamento cittadino che da diversi anni ormai è presente in città e cerca di rispondere e di dare un po' di continuità alle iniziative di solidarietà con il popolo palestinese per la liberazione popolare del popolo palestinese. È una realtà eterogenea, nel senso che ha vuole e ha voluto e vuole continuare a mantenere al suo interno le diverse anche anime del sostegno e della solidarietà alla Palestina, avendo con chiarezza alcuni punti comuni di sintesi e di iniziativa comune. Questi punti comuni sono il sostegno alla resistenza palestinese in tutte le forme che si esercita. Sono la solidarietà con i prigionieri politici e la consapevolezza e con i prigionieri palestinesi, con la consapevolezza che il sistema israeliano è un sistema profondamente repressivo e incentrato sul controllo, che tra l'altro è una delle cose che trasmette anche all'estero, perché sappiamo bene che i sistemi di controllo israeliano sono all'avanguardia, diciamo, all'interno tra gli stati capitalisti e gli stati imperialisti. Agli altri punti che anche stasera andremo ad affrontare e che ci vedono su un fronte comune sono sicuramente il rifiuto, per parlare dell'attualità, del piano Trump, quindi dell'annessione tout court della Palestina, anche dopo quello che è già avvenuto, anche della Cisgiordania e di parte di Gaza. Così come il rifiuto e la contestazione degli accordi che si stanno facendo adesso tra Israele, gli Emirati Arabi e alcuni altri paesi arabi o islamici, anche africani, sotto l'egida degli Stati Uniti e che hanno tutto lo scopo di legittimare la repressione e l'occupazione che Israele continua a perpetrare nei confronti del popolo palestinese. Bene, ti ringrazio Guido, vorrei poter utilizzare questi pochi minuti che abbiamo prima della riunione per qualche intervista volante a qualcuna delle organizzazioni Bene, presenti. grazie a voi. In queste interviste volanti incontriamo Leonardo del cantiere Camillo Cienfuegos di Campi Bisenzio. Allora, Leonardo, che cosa ritieni importante che venga trattato in questa serata di discussione tra associazioni e soggetti diversi? Ma io credo che da stasera può venire fuori vari argomenti da affrontare in eventuali mobilitazioni che appunto decideremo, iniziative che decideremo di mettere in campo appunto stasera. E un aspetto che secondo noi del cantiere è importante toccare è quello del tentativo di equiparazione tra antisionismo e antisemitismo. Che significa questo? Da tanto tempo, ma negli ultimi anni soprattutto, c'è stata un'accelerazione appunto nel tentativo di condannare, di giudicare come antisemitismo l'opposizione al sionismo e la solidarietà al popolo palestinese. Questo si vede sia dai disegni di legge che vengono approvati, dalle mozioni che vengono approvate nei parlamenti di mezza Europa, vedi Francia, Germania e Inghilterra, ma anche in alcuni atti che ha messo in campo l'amministrazione Trump proprio contro il movimento BDS, del boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Noi riteniamo che questo processo abbia a terminare qua. Ho dimenticato di dire in Italia c'è tutto un ampio consenso su questo diciamo aspetto per noi del tutto negativo, che va sia da alcuni settori diciamo democratici del centro-sinistra fino soprattutto alla Lega di Salvini, che ha avuto pochi mesi fa a dichiarare che appena cedeva il governo avrebbe fatto una legge appunto contro gli oppositori di Israele, gli oppositori del sionismo e i solidali con la Palestina. Quindi ecco, già abbiamo un processo a Milano dove alcuni compagni che hanno contestato la presenza della Brigata Ebraica durante il corteo del 25 aprile a Milano e sono adesso sotto processo per istigazione all'odio razziale. A questi compagni abbiamo mandato anche la solidarietà qualche mese fa. Il processo è stato rimandato, giusto per dare un'indicazione, è stato rimandato per via del Covid, doveva essere il 10 marzo, la prima udienza invece è stata rimandata a breve, adesso ci sarà la prima udienza, adesso non ricordo precisamente la data. Ecco, secondo noi è necessario rivendicare la legittimità di esprimere la nostra solidarietà ai palestinesi, di condannare e stigmatizzare la politica criminale, razzista di apartheid dello Stato di Israele. E quindi ecco, è uno degli aspetti che vorremmo toccare anche stasera. Ti ringrazio Leonardo. Passiamo a qualche altra intervista che ci riesci di fare in questi pochi minuti rimasti. A Barbara, di Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, chiediamo quale sia, secondo lei, l'aspetto più critico attualmente e che vada maggiormente evidenziato nella situazione palestinese e quindi anche nella riunione di stasera. Sì, secondo me l'aspetto più critico oggi è proprio il calo di attenzione che c'è sulla questione palestinese, su ciò che sta accadendo in Palestina. Questo ovviamente ha diverse cause. Una è sicuramente la crisi socio-politico-economica che viviamo noi come paesi occidentali, ora anche in conseguenza dell'emergenza Covid. L'altra è un problema di debolezza, di leadership del popolo palestinese che fa sì che attiri anche poco l'attenzione di persone già distratte appunto da altro tipo di problematiche. Tutto questo però non ci deve far dimenticare che Israele sta portando avanti una pulizia etnica e un'occupazione violenta, però a bassa intensità, cioè che non fa notizia, perché se vengono sradicati, come vengono sradicati, 200 ulivi a settimana o arrestate 10 persone a settimana o un colono investe 3 palestinesi, che sono notizie di tutti i giorni, ma sono notizie che non diventano notizie per i principali mezzi di comunicazione, quindi a noi non arrivano e sembra che in Palestina l'unico problema siano i casi di Covid che colpiscono gli israeliani e il lockdown che Israele ha dovuto dichiarare. Ti ringrazio Barbara e passiamo a qualche altra consultazione nel pochissimo tempo che ci rimane. Ora la parola a Piero di Assopace Palestina, sezione di Firenze. A Piero chiediamo che cosa lui ritiene importante che emerga nella riunione di questa sera. Bene, ma le cose sarebbero tante perché proprio oggi è arrivata la notizia che Israele e il governo italiano si sono scambiati le armi, cioè Israele ha venduto dei missili all'Italia e l'Italia in cambio ha dato elicotteri da guerra a Israele. Ecco, questo è un esempio di cosa sta succedendo. Noi siamo qui riuniti. Anche perché per creare un coordinamento fra i vari gruppi che si occupano, sono impegnati per la difesa dei diritti umani e l'autodeterminazione del popolo palestinese. Però i dati di fatto sono questi. Quindi che cosa possiamo fare noi? Che cosa mi aspetto? Io mi aspetterei, semmai l'unica cosa che si potrebbe fare è quella di mettersi d'accordo, creare un coordinamento serio fra tutti questi gruppi, perché si possa fare pressione, sostenere anche quei 450 gruppi fra palestinesi e europei che hanno mandato alle Nazioni Unite, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una lettera di protesta perché finalmente si riconosca lo stato di apartheid che Israele sta creando nei territori palestinesi, come crimine contro l'umanità. Del resto, per l'Ucraina è stato fatto, sono state messe sanzioni. Prima c'è stato il Sudafrica contro l'apartheid e sono state prese iniziative e sanzioni contro quei governi. Non si vede perché non si dovrebbe fare lo stesso per i governi italiani. Certo, non lo possiamo fare noi, però ci sono dei movimenti a livello internazionale che vanno assolutamente sostenuti. Dal basso, quindi tutti questi gruppi, si dovrebbe fare un progetto unitario, creare un coordinamento per sostenere la politica, quei politici, quei rappresentanti politici, istituzioni nazionali e non nazionali, internazionali, che si stanno mobilitando perché in Israele cessi lo stato di apartheid e l'annessione silenziosa dei territori palestinesi per l'autodeterminazione del popolo palestinese. Questa penso sia la nostra. Grazie e buona riunione. Da ultimo, prima della riunione, Alberto Mari, internazionalista, persona nota a tutti quelli che si occupano di Palestina. Alberto, dici tu che cosa secondo te vorresti che uscisse fuori dalla riunione di questa sera? Mi piacerebbe riuscire a riportare nell'agenda politica dei compagni e delle compagne che lottano la questione palestinese, perché è una questione che sta andando un po' nel dimenticatoio, quando invece è un po' l'esempio di quello che ci aspetterà anche a noi, perché la Palestina non è che un laboratorio di tutte le tecniche di controllo, e presto toccherà anche a noi, quindi non va dimenticata. E poi un po' il problema dei problemi con la questione medio orientale, è un po' l'esempio di come il colonialismo da insediamento può avanzare, e è un po' l'esempio per tutte le destre, i sovranisti del mondo, no? Per cui bisogna un po' fermare questo progetto. Adesso la Palestina se la stanno un po' dimenticando tutti, stanno annettendosela, però i palestinesi esistono, resistono, e credo che noi dobbiamo innanzitutto appoggiare la resistenza palestinese in tutte le sue forme, in qualunque forma si esprima, perché questo popolo ha diritto innanzitutto al ritorno di tutti quelle milioni di profughi che sono sparsi nel mondo, e poi ha diritto a una terra. Io mi auguro che sia una terra unica per tutti, al di là di ogni religione e di tutto, però che sia una terra per tutti, cioè quindi che i palestinesi ci siano, e tutti quelli che sono arrivati negli ultimi anni dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Ucraina, da tutti i paesi del mondo che non c'entrano nulla, insomma, visto che sono spesso ricchi possidenti, che se ne tornino al loro paese lasciando quella terra che è stata colonizzata da troppi anni. Grazie Alberto, buona riunione. Grazie. بتعصى في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي صاحب العرض الغربي فلسطين تبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد تتزوق طرقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم Al termine della riunione presso il CPA abbiamo chiesto ad Abed, della comunità palestinese, di riassumercene le conclusioni. Sono state conclusioni positive? Sì, innanzitutto grazie Claudio e buonasera a te, a tutti i nostri ascoltatori E giustamente dopo tanto tempo ci siamo riusciti a avere questo incontro tra a Firenze, tra tutti i componenti, insomma, dei nostri compagni per lavorarci per la Palestina in questo momento così delicato. Io presumo che le è andata benissimo, insomma, il nostro incontro. È positivo, insomma. Quali sono stati i punti conclusivi che se si possono riassumere in breve? Certo, ora noi con tutti i nostri compagni abbiamo sottolineato, abbiamo concordato, insomma, di lavorarci tutti compatti, uniti. Abbiamo preso queste decisioni di una piattaforma proprio così, sotto un nome chiaro e tondo e decisivo per un momento così delicato, insomma, che passa sulla, cioè, la questione palestinese. La situazione del nostro popolo, per lavorarci tutti insieme per la Palestina sotto una piattaforma, una sigla unica, Firenze a fianco del popolo palestinese. Allora possiamo dire che questa di Firenze per la Palestina, che era fino adesso solamente una sigla un po' generica, sta diventando qualcosa di più concreto. Per fortuna, ecco, i nostri compagni tutti insieme per l'emergenza che stiamo passando con tutti questi ultimi avvenimenti, insomma, abbiamo deciso, abbiamo concordato tutti insieme, più che convinti, più che mai questa volta, di essere, ecco, tutti compatti per poter reagire e far arrivare, insomma, la nostra voce in dove dovrebbe arrivare. E quindi questa piattaforma sarà qualcosa che viene proposto ad altre organizzazioni, oltre a quelle che c'erano il 23 presso il CPA. Certo, il nostro obiettivo è questo: arrivarci al massimo possibile a tutte le parti, fare, insomma, arrivare a lavorare a 360 gradi, insomma, per poter arrivare a far arrivare la nostra voce come palestinese, come i nostri compagni, come tutta questi compagni lavorando insieme. A tutti i componenti, insomma, alla città, dall'ente locale alle scuole, a tutti quanti. Ecco, la tua impressione nel corso di questa riunione è stata che vi fossero delle divergenze, delle differenziazioni forti tra i partecipanti, oppure che c'era una sostanziale concordia di punti di vista? Guardi, io di sicuro, giustamente, ognuno ha le sue opinioni, la sua, diciamo, le sue convinzioni, però quando si tratta della questione palestinese ce ne sono 3-4 punti fondamentali che sono condivisi e nessuno ha obiettato o ha contro da dire contro questi 4 punti fondamentali, insomma, che loro tutti quanti hanno concordato di reagire compatte per far, insomma, realizzare questi, lavorando intorno a questi 4 punti che sono essenziali, come possiamo reagire per ecco, aiutare il popolo palestinese in questo momento così delicato in particolare. E allora io non ho notato nessuna divergenza tra i nostri compagni, insomma, nella riunione, ultima riunione avuta. Allora direi che questa è una cosa abbastanza preziosa e abbastanza nuova, perché sono organizzazioni molto diverse, queste che hanno partecipato, con basi sociali anche diverse, e quindi il fatto, cioè, direi che alla domanda che ti avevo fatto all'inizio, se le conclusioni sono state positive, mi pare che tu stia rispondendo di sì. Di sicuro sono state positive perché tutti quanti siamo d'accordo nel appoggiare la lotta delle prigionie palestinesi, che nessuno dei nostri compagni dice di no e non può essere convinto per dire a un punto del genere. la lotta o il lavoro a fianco del popolo palestinese, del diritto, il suo diritto al ritorno dei profughi, all'autodeterminazione e alla unità del palestinese. Sicché sono tutti punti, tutti quanti abbiamo concordato e nessuno può dire di no. Ecco, a 4-5 punti fondamentali che sono quasi condivisi da noi palestinesi, e queste sono le nostre aspirazioni per poter resistere a un nemico in un momento così molto difficile, sicché nessuno ha da dire nulla contro questi 4-5 punti fondamentali per noi palestinesi, che veramente è stata una cosa bellissima, perché nessuno ha detto di no o contro per una proposta del genere. Allora, Abed, io ti ringrazio di queste conclusioni e attendiamo di vedere questa piattaforma perché sarà sicuramente qualcosa di molto interessante. Io Arrivederci e grazie. voglio ringraziare te e i nostri ascoltatori, e voglio ringraziare di nuovo i nostri compagni, e andiamo avanti. Viva la Palestina! One air strikes all day and all night. Phase two, rockets hit the Gaza Strip with phosphorus. Phase three, ground attack. How we gonna counteract? Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Israel, you should be ashamed. Killing maimed thousands of civilians in our name. Claim you hitting terrorists, but children in your aim. Even murder relief workers, what's spilling from their brain? While they tried to drive the ambulance, so they couldn't stand a chance. Even bombed students, hospitals, Maas, Rafa, and Khan Yunis. Shot them in their back like the cops to Oscar Grant. And in each case, the good old United States sponsored that. 7 million a day that we pay tax, and Apex lobbyists is robbing us. Sometimes it feels like there ain't no stopping this. But now nobody can deny it, cause you made it too obvious. Naked truth exposed like the emperor's clothes. The struggle's getting hotter and the temperature rose. Since 1948, when you formed the state, Palestinian people still defending their homes. They ain't been surrendering, nope. Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Cause they even bombed the United Nations. Look, I'm Israeli, my government's so arrogant. War criminals who call Palestinians terrorists for resisting extinction and occupation, comparing us to genocide and reservations of Native Americans. It's a massacre. Kick out the ambassador. Divest from the apartheid like South Africa. Boycott them like King to Montgomery buses. Show them we want peace, but only with real justice. They murdering the media and witnesses left. We're gonna stop shopping at all the businesses that invest in building their settlements and gentrifying our corners. Illegal walls over there and the U.S.-Mexico border. Build a worldwide movement till the truth is heard. And supporting the Israelis who refuse. In ultimo vi vogliamo dare la notizia dell'evento di Falastin, Festival della Palestina, che si terrà a Roma, Giardino Verano, San Lorenzo, dal 1 al 4 ottobre. Saranno 4 giorni di dibattiti su vari temi, quali l'attivismo giovanile, la presentazione delle campagne del BDS contro l'apartheid israeliana, e poi l'Italia, l'Europa e la questione palestinese, con Tommaso Di Francesco, condirettore del Manifesto, Pino Cabras, parlamentare del Movimento 5 Stelle, Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina e già vicepresidente del Parlamento Europeo, Stefano Fassina, deputato LeU. Poi altro argomento, i media e la questione palestinese, con Patrizia Cecconi, presidente Oltre il Mare. Gerusalemme, diritto a ritorno prigionieri, con Ala Alainain, presidente Giovani Palestinesi d'Italia, e Bassan Saleh, giornalista palestinese che abbiamo avuto ai nostri microfoni in una trasmissione qualche tempo fa. Un incontro, un dibattito sul tema del coraggio delle donne, con interventi tra gli altri di Nacera Benali, giornalista algerina, Cristina Cirillo di Donne per il Mediterraneo, e Rania Hamad, vicepresidente Comunità Palestinesi di Roma. Ci saranno inoltre presentazioni di libri, ne cito uno tra gli altri, Arafat, il sovrano senza Stato, di Stefania Limiti, presentato dal giornalista Alberto Negri. E poi film, cortometraggi del Nazra Festival Film, a cura tra gli altri di Cecilia Dalla Negra, uno spettacolo e musica con Monio Vadia e tanto altro. Insomma, un evento da non perdere. Prima di lasciarvi al consueto appuntamento musicale, vi informiamo che potrete trovare il link e tutte le notizie relative al Festival Palestinese di Roma sul blog di Radio Wombat. Ascolterete quindi Mautini, Patria Mia, con le parole del poeta palestinese Ibrahim Toucan e la musica di Mohammed Fulafil. Per alcuni anni questa canzone è stata anche l'inno nazionale palestinese. Seguirà un adikum, parole e musiche di Taufik Zayad e Ahmed Kabur, nell'arrangiamento hip hop dei Darg, Arabian Revolution Guys, un team di giovani di casa che ha dedicato il brano a Vittoria Reguli. Per chiudere ascolterete Imperials Clouds, scritto dalla rapper ebrea americana Ilana Weaver, conosciuta anche con il nome d'arte Invincibile, la cui musica riflette una convinzione profondamente radicata nella giustizia sociale. Imperials Clouds è infatti una chiamata all'azione, una delle strategie più efficaci che possiamo perseguire in questo momento, infatti è il BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni a campagna contro Israele. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah!

Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Till there's right of return for displaced and reparations. Boycott, divest, and sanction. Say, boycott, divest, and sanction. Say, boycott, divest, and sanction. There's a war criminal in this building. Just